Bentornati, bentornati. Ricordo che questo è sempre sulla linea d'ombra. Siamo di fronte a un argomento molto bello, molto interessante, molto, direi, caratteristico, ecco, è sempre attuale. Ho rinvenuto una frase molto bella che dice, sempre tratta dall'articolo che vi leggevo prima sulla Dea Tiche, ma la vita è la fortuna stessa, dice, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle di Nemesis. Non varrebbe davvero la pena di tornare a tributare a questa dea maggiore attenzione e rispetto? Ricordandosi di ringraziare la buona sorte quando ci sorride e chiedendoci il motivo quando non lo fa. Questo è ciò che mi piaceva anche leggervi in conclusione di questo articolo che ho appena letto. Adesso invece voglio leggervi la testimonianza di una persona che si sentiva molto fortunato e che effettivamente. Lui racconta un evento in particolare, un evento che sia, dice lui, di rappresentanza di tutto ciò che mi succede il giorno. E questa persona dice: io mi sento veramente una persona molto fortunata, dice, e quando la fortuna sta per baciarmi, io me ne rendo conto e lo sento. E racconta di un aneddoto. Questa testimonianza risale al 20 luglio del 2009. La persona che l'ha postata, l'ha postata alle 20:35 su un forum. Dice: volevo parlare della fortuna, ho detto poco niente in me. L'ho notato molte volte. C'è una particolare sensibilità nel sentire cosa deve avvenire. Per esempio, ogni qualvolta mi sono trovato in difficoltà, vi è stato un qualcosa che ha rimesso al suo posto le cose. È forse per questo che sono un grande ottimista. Sono parecchi i casi in cui è avvenuto tutto questo. Poi qui, vabbè, c'è una parte omessa. Comunque racconta e dice: era domenica, la festa del patrono. Io e la mia futura moglie abbiamo acquistato alcuni biglietti al banco di beneficenza. Abbiamo vinto alcune cose. Tra i tanti biglietti, su alcuni c'era scritto: estrazione bicicletta. Vi erano infatti alcuni grossi premi che sarebbero stati estratti la sera dopo. Finita la serata, riaccompagno lei a casa con la raccomandazione: domani sera vai all'estrazione che vinciamo la bicicletta. Il giorno dopo, lunedì, finito il lavoro e la cena, stavo per ritirarmi quando è venuto un dubbio: vuoi vedere che quella là non va all'estrazione? Prendo la macchina e volo i 40 km che ci separavano. Arrivo, suono, mi esce in pigiama chiedendomi: cosa fai qui? E io: è l'estrazione, vestiti in fretta, dobbiamo vincere la bicicletta. Lei: ma va, va. Comunque si è rivestita e siamo andati, appena in tempo. L'ho riaccompagnata a casa più tardi, con per mano la bicicletta. Ho altri casi, ma li posterò in seguito. Ora vado, un saluto a tutti. Questa era la testimonianza di una persona che si sentiva fortunata in quel momento, effettivamente ha vinto la bicicletta. Quando si dice te lo sentivi, e si è sentito di vincere la bicicletta, effettivamente l'ha vinta. Io non so se a voi è capitato un evento particolarmente fortunato, ma non fortuna solo di aver vinto la macchina. Potrebbe essere anche un'altra cosa, potrebbe essere il fatto di stare nel punto giusto, nel momento giusto. Potrebbe essere anche quello. E niente, poi ho rinvenuto un altro articolo molto carino. Questo penso che interesserà veramente tanto, perché in questo articolo si parla di come attirare la fortuna, un sorprendente metodo per attirarla. Si parla di questo. Io prima di leggervelo, comunque, vi annuncio che si tratta di alcune leggi. La legge è la teoria della ciclicità della fortuna. Scusate, ogni tanto mi impiglio. Però prima di leggervelo e di addentrarci nel pieno di questo, io vi lascio ad un brano musicale. Vi ricordo che se volete mettervi in contatto con noi potete farlo attraverso il gruppo Facebook di Web Radio Luzzi oppure attraverso gli indirizzi di posta elettronica radioluzzi@hotmail.it. E darci le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, raccontarci dei fatti della vostra vita. Noi li accoglieremo molto bene. Mandarci anche delle notizie flash che io inserisco, come avete visto poc'anzi, all'interno della rubrica. Anche delle vostre testimonianze, qualsiasi cosa. L'importante è che partecipiate, vi facciate sentire partecipi appunto delle nostre rubriche. E niente, adesso vi lascio ad una pausa musicale. Restate comunque tra noi e ascoltateci, ecco.